Annuntia vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum hac reverendissimum dominum, dominum lucum, sancte Romane Ecclesiae cardinalem lucis, qui sibi nomen imposuit Lucani. Assordazzo io pontificio nel mio nuovo ufficio, tra candidati vari dagli oscuri mali, quelli a me, quindi tali e quali, sedevo tra i miei pari, dai costumi strani come vestali, dentro lupanari, mani che si stringono baci tra compari, mani su innocenti strette ad intenti dottrinari della società. Noi dovremmo essere i fari, ma farisei legati a magna magna malaffari, pianti di comari illustrano gli altari, fedeli mossi dagli intenti nostri, non ci sono rimorsi a noi cari. Coi trascorsi scorci, l'ignavi ai primi posti, tra gli strumenti di battaglia da noi imposti, la faccia è salva e nessuno non li accosti, al perdono predisposti, mettiamo mani avanti, la faccia è salva e nessuno non li accosti, d'essere peccatori siamo già certi. Un saluto al nuovo papa, una stella nata dall'ingiuria e dall'infamia che latra, a una folla che si sbarra addosso e sbava, questo è Vaticano, è Satana cioccolata. Un saluto al nuovo papa, una stella nata dall'ingiuria e dall'infamia che latra, a una folla che si sbarra addosso e sbava, questo è Vaticano, è Satana cioccolata. Vivo con la mente sulla lapide, tanto che Dio deciderà di giudicare me. Spia le persone che il re non era Davide, conquista gli anime, ma l'importante è il contante di Travescek. Amen. Nelle menti di chi recita rosari, accettiamo meglio candidati e malaffari, mondiamo noi i tuoi mali, tu onora gli onorari. Sì, papari, Cristo sta tra ladri, troie e bari, giude da te fammi pari, non avranno tregua. La chiesa presa chi soppone, qua lo si discredita. Boh, che mi sente, io faccio un dono. Boh, papà, do creator benedicente, concede a voi il perdono. La faccia è salva e nessuno non li accosti, al perdono predisposti, mettiamo mani avanti. La faccia è salva e nessuno non li accosti, d'essere peccatori siamo già certi. Un saluto al nuovo papa, una stella nata dall'ingiuria e dall'infamia che latra, a una folla che si sbarra addosso e sbava, questo è Vaticano, è Satana cioccolata. Un saluto al nuovo papa, una stella nata dall'ingiuria e dall'infamia che latra, a una folla che si sbarra addosso e sbava, questo è Vaticano, è Satana cioccolata.